Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. La cartina è spiegata sulla sella. Di GPS e navigatore ancora non se ne sente parlare un granché. Devi orientarti alla vecchia maniera. E verso mezzanotte sei già alle prese con rotatorie che qui a Malta si percorrono rigorosamente contromano. Io sono Giuseppe Raldino, ho 36 anni, vivo a Groningen in Olanda, sono sposato, ho 3 figli e insegno all'Università di Scienze Applicate. Io non lo so se forse voi vi tenevate ancora questo weekend per decidere che cosa fare la settimana prossima, a meno che non siete già in ferie. Se invece eravate a Milano, delle parti di Milano, o avevate in mente di venire a Milano giovedì 26 per il live, e ancora vi tenevate questi due giorni, sabato e domenica, per decidere, beh, mi spiace, siete liberi di non pensarci più, perché purtroppo, o per fortuna, dipende dai punti di vista, il live di giovedì prossimo è sold out, non c'è più un buco dove infilarsi. I posti sono tutti pieni e quindi ci sarà, diciamo, tutti quelli che hanno prenotato fino ad oggi, beati loro. Tutti gli altri invece, mi spiace, sarà per il prossimo anno. Quindi chiudiamo ufficialmente le iscrizioni al live attraverso il sito di Radio 24. In questo momento ci saranno, credo le persone che ci sono al concerto dei Pearl Jam questa sera, più o meno, forse qualcuna di più. Al live di giovedì prossimo noi vi aspettiamo, quindi puntuali alle 21. Io vi ricordo che sarà una serata in cui non ci saranno solo le 10 storie più rappresentative di tutta la stagione di Voi Siete Qui, ma ci sarà dal vivo la musica di Mauro Tolini e dei Sousaphonics, che musicheranno, accompagneranno e suoneranno sostanzialmente sul palco insieme a me, oltre ovviamente a tutta la squadra, da Margherita a Tiziano a Mauro, che arriva da Roma apposta per stare tutti insieme quella serata. Quindi se avete un modo per venire, se l'avete già trovato, benissimo, altrimenti so già che c'è qualcuno, addirittura Stefania, che è un'ascoltatrice affezionata, che da Bologna offre due posti, una sorta di bla bla live per arrivare in automobile. Se per caso veniste, questo insomma non è uno scherzo, se veniste in macchina da zone lontane, insomma da Milano, ma anche da Cinisello Balsamo va benissimo, da Torino o da Treviso, e avete un posto in più, magari condividetelo sul nostro profilo Facebook. Facciamo che usiamo quella bacheca lì. Voi siete qui a Radio 24 per creare quella che di fatto poi crea la radio da sempre, da quando esiste, cioè per creare un po' di comunità. Se quindi avete voglia di venire e non avete un mezzo, o volete risparmiare due soldi, o volete semplicemente fare quattro chiacchiere con qualcuno con cui condividete questa cosa qua, cioè il programma e quindi la serata, Voi siete qui a Radio 24. Vale anche un passaggio in Vespa o sulla canna della bicicletta, e dico Vespa non a caso perché la storia di oggi parla proprio di quello lì. Invece c'è un'ascoltatrice carinissima che sono giorni che ci scrive: come si arriva dall'aeroporto? Arrivo da Roma, come si arriva dall'aeroporto? Adesso, guarda, non mi ricordo più come ti chiami esattamente. Patrizia, ecco. Patrizia, adesso spiegarti proprio tutto che devi prendere la 66. Cosa c'è? La 75 da Linate? Cosa? La 78? Vabbè. Insomma, diciamo che la radio sta vicino a Piazzale Lotto, ok? Quindi è proprio facilissimo. Viviamo in Tolosa 91, confluisce in Piazzale Lotto, quindi lì c'è la metropolitana rossa. Qualsiasi modo voi abbiate per arrivare alla metropolitana rossa e scendere a Piazzale Lotto, va benissimo. La serata comincia alle 21, si apriranno le porte probabilmente una mezz'oretta prima, quindi per trovare un posto, un passaggio in macchina, Voi siete qui Radio 24 su Facebook, altrimenti il sito dell'ATM, banalmente, per scoprire come arrivare. Se venite in Vespa invece, o se avete un amore particolare per la Vespa, la puntata di oggi è tutta dedicata a voi. Questa è una puntata in cui, diciamo, non c'è un macro evento. Quello che c'è in questa puntata è una sensazione, quello che c'è in questa storia è un clima, è l'estate che molte delle persone che vivono in questa parte del mondo, cioè che vivono intorno al bacino del Mediterraneo, conoscono. È quell'estate che è dirompente, che è caldissima, che è luminosa, che ha a che fare con il concetto di libertà, perché sono finite le scuole, perché forse c'hai le ferie e quindi puoi pigliarti la tua fidanzata e andartene via e stare in un'isola, che è un'isola, in questo caso è Malta, che devo dire è un'isola un po' bistrattata rispetto a quanto in realtà è bella, e soprattutto farlo su due ruote. 349 238 6666. La Vespa è quel simbolo di italianità che c'è da sempre in tutto il mondo, moltissime persone ce l'hanno, moltissime persone ce l'hanno avuta e moltissime persone ci hanno fatto delle vacanze. Dove siete stati? Dove siete andati? Quanto tempo avete fatto in giro con la vostra Vespa? 349 238 6666. Un po' come la storia, come la storia di oggi, la storia di Giuseppe, che parte in realtà dalla Sicilia e arriva a Malta in Vespa. Dove siete andati? Avete fatto il giro dell'Europa? Avete fatto il giro della Sicilia? Io ci ho fatto tutto il giro della Corsica, io e il genovesi, in 5 giorni, partiti da Bastia. Fate tutto, ci fermiamo? No, andiamo. Cosa facciamo? Bagno? No, andiamo. È stato un giro in Vespa un po' particolare. 349-238-6666. Con la vostra Vespa, dove? Perché Giuseppe è andato a Malta. La prima volta che ho davvero sentito di trovarmi su un'isola è stato a Malta. Tutto comincia un giorno d'estate. Tu e la tua ragazza, che poi diventerà tua moglie, montate sulla vostra Vespa ET450 e vi dirigete di buon'ora a Pozzallo, dove vi aspetta un traghetto per La Valletta. In realtà le cose non filano tanto lisce, c'è qualche intoppo coi carabinieri che vi trattengono per una stupidaggine riguardante i documenti. Tant'è che dovete rimandare la partenza alla sera. In qualche modo però devi ammettere che i guastafeste della benemerita non vi hanno fatto proprio un cattivo favore, perché arrivando a destinazione con le deboli luci della notte, mentre il traghetto procede lento tra le fortificazioni del porto così solenni e imponenti, superbe, vi basta una sbirciatina fuori dall'oblò per avvertire una drammaticità che vi travolge. Inaspettatamente, in vista dell'attracco, il regime dei motori precipita al minimo, cala il silenzio. L'atmosfera si fa quasi surreale e i chiaroscuri là fuori ti fanno respirare una gravità invincibile, come se davvero ti trovassi dentro a un quadro di Caravaggio. Allora, la storia si riferisce a un viaggio che ho fatto nel 2005. Allora ero appena laureato, cominciavo a muovermi nel mondo del lavoro, ma non avevo nulla di fisso, insomma, tanti sogni e ci piaceva, insomma, andare in giro con la Vespa, esplorare posti nuovi. La cartina è spiegata sulla sella, davanti al primo bancomat dove hai appena prelevato valuta fresca. Di GPS e navigatori ancora non se ne sente parlare un granché. Devi orientarti alla vecchia maniera. Verso mezzanotte sei già alle prese con rotatorie da imboccare in senso orario e strade indegnamente dissestate, che a Malta, come nel resto del Commonwealth, si percorrono rigorosamente contromano. Arriviamo all'ostello nonostante tutto. Ci danno la stanza più bella, con vista mare, e da lontano si vede perfino Victoria, sull'isola di Gozo. Ma il vero splendore arriva l'indomani, quando un fascio di luce abbacinante penetra senza problemi anche attraverso le tende spesse e i pesanti tendaggi. A quel punto ci ritroviamo carichi di una nuova euforia. Abbiamo la cartina dettagliata di un'isola raggiante, che misura soltanto 15 km in larghezza e 27 in lunghezza. Abbiamo una Vespa a nostra completa disposizione per esplorarla, come meglio crediamo. E ci sono un mucchio di bellezze architettoniche, storiche, artistiche, culturali, paesaggistiche e gastronomiche che ci fanno l'occhiolino. It smells of whetstone after the rain. I predict a warm windless night. No waves, no battleships in sight. When we switch off all the lights in the room, who's gonna kiss whom? Oh, who's gonna kiss whom? When your heart goes boom, boom, boom. Ecco allora che ti studi a menadito tutta la Lonely Planet. Intanto comincia a intravedere collegamenti con altre letture, oltre a un mucchio di curiose coincidenze e di tante altre storie che emanano un affascinante sentore di mistero, da Caravaggio ai cavalieri ospitalieri, dai templi megalitici più antichi di Stonehenge alle catacombe paleocristiane, dalle prigioni sotterranee ai vari cunicoli e ipogei disseminati per l'isola. Ti lasci prendere la mano, bisogna ammetterlo. Rinunceresti pure al mare cristallino pur di andare appresso a quelle visioni, poi però ti ricordi che non sei qui in veste di ricercatore. La tua ragazza, dopo tutto, vorrebbe anche sentirsi un po' in vacanza. Ecco allora che abbandoni la Vespa in prossimità di baie remote e inspiegabilmente deserte per un'isola che è tra le più densamente popolate al mondo. E passeggiate sulla spiaggia, bevete un drink nella chiassosissima St. Julian, respirate odore di capperi e origano lungo le polverose strade interne, che non conoscono l'asfalto, ma semplici muretti a secco ai loro margini, disposti lì a biancheggiare in mezzo alla calura della macchia mediterranea. Ci trovavamo in Sicilia e Malta era la scelta, come dire, obbligata, la più naturale, perché era abbastanza vicina da raggiungere comunque in Vespa, e al tempo stesso era completamente diverso da quella che dalla cultura che avevamo attorno a noi, quindi un'altra lingua, un'altra valuta, un'altra tradizione, nonostante ci siano punti di contatto tra la cultura siciliana e quella maltese. A un certo punto si visita un villaggio pittoresco, col mercato rionale che riempie l'aria di odori e di urla, coi pescatori che riparano le reti seduti davanti all'uscio e le barche vicine che ondeggiano tranquille di colori sgargianti. Decidi così che vale la pena restare un po' più a lungo da quelle parti. La stessa sera si cena a base di pesce su un terrazzino da cui si scorgono lontani i tremolii delle lampare, mentre sorseggiamo dei vini locali forti e imbevibili. Certo, non poteva essere tutto perfetto. Fino a quando in piena notte, a una ventina di chilometri dall'ostello, la cinghia di trasmissione decide di squarciarsi. Accostiamo, assicuriamo la Vespa a un palo della luce e ci incamminiamo verso un villaggio vicino, dove riusciamo a prendere l'ultima corriera. Che fortuna! Sì, perché la disavventura, tutto sommato, ci sta comunque, dal momento che ci porta a salire su uno di quei tipici autobus maltesi bianchi e arancioni degli anni 60, tutti cromati, rumorosi, dall'estetica superba e dalle emissioni mefitiche e velenose. L'autista ha un sorriso simpaticissimo e una catenina d'oro adagiata sui peli del petto. Guida tutto allegro e approssimativo, coi finestrini abbassati e la radio a palla, mentre inquina irrimediabilmente lungo la strada costiera. Il proprietario dell'ostello ci mette in contatto con il suo simpatico amico George, che nel look ha più o meno le stesse preferenze estetiche dell'autista, solo che lui sta alla guida di una macchina scassatissima dotata di gancio e provvidenziale carrello. Andiamo a recuperare la Vespa, la facciamo salire sul rimorchio come un vitello mansueto rassegnato. Nel giro di mezz'ora è già sotto le mani esperte di un altro George, meccanico specializzato della Yamaha, dotato di apertura mentale verso le altre marche. Gli ultimi giorni di vacanza sono più rilassati, si va spesso ad ammirare il blu profondo del mare, a volte si fa un tuffo, a volte ci si siede su una roccia a contemplare il rumore dei flutti. Il mare è ovunque, in ogni pensiero. Poi da solo l'urlo diventò un tamburo, e il povero come un lampo nel cielo sicuro cominciò una guerra per conquistare quello scherzo di terra che il suo grande cuore doveva coltivare. Come profondo il mare, come profondo il mare. È in primissimo piano la faccia di Giuseppe, accenna appena appena un sorriso, ha la barba leggermente incolta e ha un'espressione, gli occhi o forse la luce molto molto luminosa. Pronto Giuseppe? Ciao Matteo. Ciao, come stai? Bene, benissimo, grazie. Grazie per averci fatto assaporare questo profumo di Mediterraneo, di questa luce fortissima di Malta, che tra l'altro, scusami, tu sei siciliano, giusto Giuseppe? Sono Siracusa. Sei di Siracusa, perfetto. Siracusa, che è una delle città più belle di questo paese. Lo possiamo dire. Ortigia è uno dei posti più belli che ci siano in Italia. Poi se la sono comprata tutte gli inglesi, mi pare, però continua ad essere uno dei posti più belli di questo paese, sì, che non si conoscono moltissimo. Ma insieme, se non lo sapesse, Ortigia è un'isola nell'isola. Sì, l'isola di Ortigia, il centro storico di Siracusa, che poi insomma è un'isola stupenda ma molto più piccola rispetto a Malta. Cioè è collegata da un istmo, giusto? C'è un ponticello per passare a Ortigia. È un ponte artificiale, non... Chiaro. A tutti gli effetti un'isola. È un'isola. Sì. Tra l'altro insieme a Pietro Lacorte, che è tuo conterraneo, essendo non di Siracusa ma palermitano, ci domandavamo, ma per quale motivo Giuseppe si sente che è siciliano, si sente su un'isola a Malta e non in Sicilia? E quello è il punto, perché perché vabbè, magari a casa uno non ci fa troppo caso, come dicevi tu, Ortigia è collegata direttamente alla terraferma, per cui si fa sempre questa passeggiata e si arriva nel cuore di Siracusa, e la Sicilia non la percepisci come un'isola, è immensa, è grande, è leggermente più grande della Lombardia. Ah, okay. Puoi immaginarti che di stare su un'isola? No, ecco, la prima volta che, come comincia il racconto, che ho sentito di trovarmi su un'isola è stato a Malta, perché ti devi confrontare con certi limiti. Col fatto che è visibilmente più piccola e c'ha il mare un po' dappertutto, sì, quello intendi. Esatto. E che ci fa un siracusano a Groningen adesso, Giuseppe? Dopo un po', dopo aver provato insomma a fare qualcosa lì in Sicilia, abbiamo pensato, io e la mia ragazza che è olandese, di provare anche a vivere in Olanda, per la par condicio. Okay. E devo dire che è andata bene e sono rimasto qui. E quindi avete avuto l'opportunità, essendo andati a vivere in Olanda, di fare tre figli, giusto? Perché fare tre figli in Italia è da sconsiderati a quest'età. No. Sì, è vero. In Olanda invece, dai, racconto, facci innervosire un po', è come in Norvegia che vi danno il pacco quando nasce il figlio, cioè avete la paternità, la maternità, se potete stare sì, senza dubbio, non sarà magari come in Norvegia, dove nei paesi scandinavi forse la maternità e la paternità sono ancora più tutelati, però diciamo che fare un figlio non è considerato un atto considerato, nel senso che non voglio fare innervosire nessuno, ma è sicuramente qualcosa che ti fa riflettere un po' e ti lascia l'amaro in bocca rispetto all'Italia. Guarda, dove appunto qui si viene aiutati dallo Stato, mentre in certo. Italia si viene aiutati dai genitori, dai nonni sostanzialmente, certo. Si parte dai genitori, dai nonni, dai parenti, tutto è molto bello, voglio dire, perché Italia, la nostra cultura, fa un riferimento molto forte ai legami di parentela. Sì, insomma, lo stato sociale è più familiare, più uno stato familiare che sociale. Ma parlavo con un pediatra qualche giorno fa che mi diceva, chiaramente amichevolmente, ma lo credeva veramente, cioè guarda, in Italia solo i molto ricchi e solo i molti poveri fanno più di un figlio, per tutti gli altri è un po' più complicato. Senti, invece mi dici che problemi vi hanno fatto i carabinieri prima di imbarcarvi? No, ti spiego, intanto non si trattava di un posto di blocco, si trattava soltanto di carabinieri, non essendoci la polizia a Pozzallo, i carabinieri fanno funzione di polizia frontaliera. Ah, e okay. La stupidaggine era che la Vespa era intestata a mia madre, per cui secondo loro stavo tentando di espatriare con un mezzo che non era di mia proprietà. Okay. Ma poi è arrivato il fax, tutto a posto. Tutto a posto, il fax. La considero anzi una fortuna, perché arrivare alla Valletta e attraccare la notte è stato magnifico. Un'esperienza bellissima. Sì. Prima di salutarti, Giuseppe, cosa fai lì a Groningen quindi adesso? Insegno all'Università di Scienze Applicate ANSE di Groningen. Sì. Ok, torni in Sicilia per l'estate, hai fatto una vacanza italiana? Sicuramente. Okay, a dicembre ho prenotato il biglietto per a dicembre. L'estate. Che tempo c'è adesso a Groningen? Intorno ai 8 gradi. Benissimo. E qui sento tutto il siciliano che è in te patire per questa esatto. Situazione a metà giugno. Io però ti ringrazio per questa atmosfera che ci hai regalato quasi in chiusura di stagione. Insomma, il 20 giugno abbiamo voluto raccontare questa storia che era molto molto mediterranea, che comunque appartiene a tutti noi. Grazie ancora Giuseppe, grazie in bocca al lupo a voi per tutto. Per averla letta. E ciao. Grazie per le musiche. A grazie. Presto. Ciao. Ciao ciao ciao. Tina mi scrive: ho viaggiato molto in Vespa negli anni 50, all'impiedi, circondata dalle braccia di papà e la mamma seduta dietro. Quanti bei ricordi e quanti profumi alle falde dell'Etna. E poi al 349-238-6666 credo ci arrivi un messaggio di un amico che era da un po' che non sentivamo, che dice: il polpo, che parla di sé in terza persona come Maradona e il Papa, la Vespa l'ha letteralmente consumata facendo di tutto, anche il Pony Express, era blu perché stava bene col panorama di Torino. E poi devo chiudere. Ah, ok, perfetto. Grazie Pietro La Corte, che mi dice che tra poco ci sarà Simone Spezza, che ha tre figli. A proposito di quello che dicevamo prima, e non vive in Olanda. Faremo un servizio tutto su Simone Spezza, una storia tutta da Simone Spezza. 2 agosto 1980, Busto Arsizio, alle 5:30 partenza, arrivo a Caserta alle 19:59. Gianluca, era una PX50. Grazie a Pietro La Corte, grazie a Tiziano Bonini, grazie a Margherita Ina. Chiudiamo qui questa settimana, cominciamo la prossima lunedì, sarà una settimana magnifica. Ci sarà il live il giovedì alle 21, vi aspettiamo e vi vediamo lì. Grazie a Giuseppe, la storia di oggi era la sua e anche lui è un punto rosso su una mappa. sono di Milano, ma la storia di lunedì è la mia e parla del mio ritorno a casa. Questa è la mia storia e io sono qui.